Buongiorno, dottore. Guardi che l'hanno cercata. Sì, sì, ho capito. Buongiorno, sono Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino. E io adesso suono un po' di musica. Gigi D'Agostino, l'inventore del lento violento. Lento, violento, lento, violento. Gigi D'Agostino. È lento, violento, è lento. Lo dico a memoria. Vi suona una storia. Una musica infinita che racconta la vita. Sole, ma non c'è. Dormi ancora alla campagna, forse no. E sveglia, mi guarda, non so. Gigio.

stai sicuro. Cammino del Gigi D'Agostino. Percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Io non predico la strada, ma un mondo pieno di strade. Una maggiore conoscenza, una maggiore scienza. We'll be right back. spazio. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Dei fenomeni. Tanto. poco, molto poco. Anzi, sì, niente. L'uomo saliente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo sapiente, Peppe Pino. L'uomo Pino, Peppe. Peppe. E come Aristotile, Cototile, chiaramente dettura. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Bon, bon. Successione dei fenomeni. Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. spazio. Voglio la cassa che mi scassa. Sente. La frequenza è codesta e la musica pesta. A marzo non mi rompete il quarzo. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Siamo l'amore. minuti nel mondo che non c'è. si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Marzo 2007, ore 22:30. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca centrale del latte, Cremona. So many times. Ci sentiamo domani. Grazie.